392. Sformato di finocchi. Questo sformato, per ragione del garato odore e del sapore dolcigno dei finocchi, riesce uno dei più gentili. Levate ai finocchi le foglie più dure, tagliateli a piccoli spicchi e coceteli per 2/3 nell'acqua salata. Poi scolateli bene e metteteli a soffriggere con un pezzetto di burro. Conditeli con sale e quando avranno succhiato il burro, bagnateli con un poco di latte, allorché avranno tirato anche questo, aggiungete un po' di balsamella. Ritirateli dal fuoco e lasciateli come sono, o passateli dall'ostaccio. Quando saranno diacci, uniteci parmigiano grattato e, a seconda della quantità, 3 o 4 uova frullate. Versate il composto in uno stampo liscio o col buco nel mezzo, regolandovi come per gli altri sformati. Cuocetelo a bagnomaria e servitelo caldo come piatto di tramesso o in compagnia di un cappone lessato. Potete anche guarnirlo di un manicaretto di rigaglie e animelle.